Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, che bello, è giovedì, quindi, si sta scivolando lentamente verso weekend. Weekend, almeno su Drago, uno scampolo di vacanza estiva per noi è questi sabato. Ma non c'è nessuno scampolo, nessuna vacanza estiva, siamo qui e quindi dobbiamo per forza continuare a parlare sì, però, di cose che riguardano l'asilo, i bambini, l'infantilismo. Va veloce. Il movimento dei no kids, quelli che pretendono di fare le vacanze tranquille, senza bambini tra i piedi, sta spopolando, come abbiamo già detto mille volte. Ma adesso escono fuori anche i nemici dei no kids, e cioè i children friendly. Ad esempio è stato pubblicato adesso un elenco di spiagge ideali per i bambini. Quindi attenzione, chi tra di voi è un no kids deve necessariamente evitare le seguenti spiagge: Lignano Sabbiadoro, il Lido di Venezia, Cervia, Riccione, Marina di Grosseto, Viareggio, Sabaudia, Sperlonga, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Vasto Marina, Palinuro, Gallipoli, Ostuni, Vieste, Isola di Capo Rizzuto, Soverato, Marina di Ragusa, San Vito Lo Capo, Tre Fontane, Alghero, Capo Codacavallo e San Teodoro. Non lo so, con un minore. Queste sono le. Vai sul minore. Queste sono l'elenco delle spiagge in cui i bambini possono andare più volentieri perché sono attrezzate e sono piene di bambini. È un lunghissimo elenco che però fa a meno di una regione di mare, forse una sola, che è la Liguria, che quindi si aggiudica il titolo di regione no kids. Bel applauso, La Liguria potrebbe anche irritarsi per l'assenza di sue località tra quelle children friendly, però può ribaltare la frittata e puntare sul pubblico no kids. Sì, certo, deve fare Liguria. La meta ideale per coppie senza figli, egoiste, relativiste, nichiliste, e che vogliono fare il sesso. Ma non è così. Da soli, senza essere disturbati dai bambini. Poi dai, ognuno ha i suoi motivi per fare o non fare figli, no? No, ho capito, ma almeno in vacanza qualche bambino intorno, no? Fa festa, fa piacere. Insomma, Magari no. Cosa fanno i bambini diverso dagli adulti? Pochissime cose. A parte il sesso. Quindi. Però magari urlano, se sono piccolissimi, piangono, si disperano tutte le ore, quindi. Gli adulti parlano. E quindi la maggior parte delle volte dovrebbero star zitti. Dan più fastidio di un bambino che piange, anzi, molto più fastidio. Sì, vabbè, ma mica urlano, Dipende. C'è una democrazia normale, vorrei dire la non frase. Dire stronzate, ma non dici frasi, dici stronzate. Siamo in democrazia, idiota, ignorante. Allora, ha parlato l'esperto. Capita anche in America, non sputanare l'Italia. Va bene, certo che è così. Va bene, certo che non è così. Certo che è così. No. Assolutamente no. Sei un bugiardo. Non c'è la neurodeliri. Clap your hands. Applaudite questa testa di... Clap your hands. Lei parla per slogan. Per reazione ai no kids c'è tutto un risveglio dell'orgoglio kids, tipo quelli che vogliono che i bar aprano le loro happy hour anche ai bambini. L'aperitivo children friendly con giochi collettivi annessi è un must adesso a Milano, ogni tanto succede, se non sappiamo dove. Quindi se vuoi rimorchiare, attenzione, state lontani dagli aperitivi children friendly. Sì, però non si tratta di semplici aperitivi, qui essendo in Italia. No, c'è sempre il sesso. Dietro queste cose qui c'è sempre un che di educativo, un che di didattico. ecco, ed è l'educazione in questo caso agli stili di vita sostenibili, capito? Queste... La linea è la mia espressione interrogativa. No, ti sto dicendo che negli aperitivi children friendly, oltre ad utilizzare lampadine a basso consumo, ma no, a basso consumo, non fare quella voce lì, quella voce lì è per sesso, non è per basso consumo. O l'acqua in brocca che arriva dal lavandino, no? O le stoviglie riutilizzabili o il menù biologico a chilometri zero. Questi locali che aderiscono all'iniziativa ospiteranno anche delle mostre, delle proiezioni e delle degustazioni di alimenti bio. Un evento. Partecipa a questo evento, segnala questo evento e mi piace, non ti piace più, non partecipi. Comunque questo è l'anti-aperitivo. Ma perché il vero aperitivo, Drago, è in un posto rumoroso, con le ragazze, con le scollature, si beve super alcolici. Non l'acqua della brocca. No, si mangiano schifezze, robe toccate con le pizzette, così, e poi ancora alcolici, e poi ghiacciazza. Tanto ghiaccio, perché il cocktail con più ghiaccio sembra una cosa che te la bevi più facilmente. In realtà la ghiacciazza poi causa dei problemi intestinali e digestivi, combinandosi con le pizzette unte. Quello è un aperitivo, no? Perché poi, dopo tutta sta pastone nella pancia, scatta il momento del sesso. La spam o posta elettronica indesiderata non è solo una di quelle cose che ogni volta ti chiedi a che cosa serva, e non è solo una di quelle cose che ogni volta ti chiedi a che come sia possibile che ci sia una bambinata planetaria così. Non solo, adesso vogliamo pure sapere che ogni spam contiene 0,3 grammi di CO2 che diventano 0,7 grammi se il messaggio viene cliccato. Ma come, scusa? Ma c'è tutto, cosa dici? Ma la spam è tutta attraverso il cavo telefonico. Lo so, però sai com'è, tutto fa consumare energia, anche fare click c'è un'energia, non lo so, io l'ho letta. Ma anche rispondere al telefono allora, scusa, quindi ci potrebbe essere un calcolo di quanta energia viene sprecata per rispondere al telefono. Ma non è sprecata, qui si tratta di questo gesto qua, ho consumo capito. Delle carbone. Apri il telefonino, ma no, però non è inutile, perché quando tu clicchi un messaggio di posta indesiderata, appunto, è una cosa inutile che ti arriva, tu non l'hai voluta, è tutta una massa di informazioni che nessuno vuole. Solo in Italia, pensa, i messaggi di posta elettronica indesiderati emettono 14 milioni di tonnellate di CO2. Ma come? Poi si spreca altra energia oltretutto a cancellarli, quindi servono dei buoni filtri anti-spam, capito? I filtri anti-spam servono anche a risparmiare energia. Ogni anno si risparmierebbero 25 miliardi di kilowattora se tutti avessero degli infallibili filtri anti-spam. Però purtroppo in Italia le cose non funzionano così, perché anche i filtri anti-spam sono diventati oggetto di interesse della mafia, della camorra, capito? E quindi anche lì. Ma non si può fare energia pulita in Italia, perché appena c'è una cosa che dico faccio energia pulita, tac, c'è la mafia. E quindi non va bene energia pulita. Continuiamo col petrolio, anche per le email. Comunque, scusa, chi è che fa i filtri anti-spam? Chi è? Sarà lo stesso che manda la spam. Ma no? Vabbè, dai. Per creare il bisogno dei filtri anti-spam, è come il virus. Sì, comunque, vabbè, i filtri anti-spam sono ormai indispensabili. Perché, sta a sentire a me, ti permettono di fingere di non aver mai ricevuto una mail scomoda. Hai capito? Infatti, come mi hai mandato la fattura via mail? Ma quando? Ieri. E non l'ho mica ricevuta. Ma come no? Io ce l'ho la posta inviata. Ah, ma forse è finita nel filtro anti-spam ed è andata distrutta. Rimandamela, dai, rimandamela. Adesso non posso, sono all'asilo. Poi... vabbè, quando puoi, intanto io guadagno tempo. Aspetta un attimo, ricordare. Patteteo, lo fammi accordare. Non devi accordare prima. Sesso.